con Pedro Armocida per i 5 film del 2001, tra quelli usciti in sala, per le nostre preferenze personali. Pedro, ben trovato. Ciao, ciao Federico, ciao a tutti. Auguri. Auguri anche a voi. In questa situazione complicata per il paese, poi a cascata, come dicevamo prima, per il cinema, con la sofferenza delle sale, ci è sembrato buona cosa comunque dare un segnale. Cosa ci dici? Facciamo anche un bilancio di quest'annata. Ma il bilancio devo dire che è molto positivo, poi va bene, ogni anno, tranne l'anno scorso, ci ritroviamo in queste condizioni, nel senso che per me è sempre complicato ridurre a 5 titoli, però devo dire che quest'anno, anche col fatto che le sale sono state aperte non tutti i 12 mesi, devo dire che il livello anche, no, di proposte, anche pensando a un festival che siamo riusciti bene o male a seguire bene, che è quello di Venezia, ci sono state delle proposte qualitative molto alte e anche, come dire, questo colpo di coda finale con alcune uscite più recenti hanno completato secondo me un anno molto interessante da questo punto di vista, devo dire forse più in ambito internazionale che italiano, anche se comunque anche lì diciamo ci sono state parecchie proposte interessanti, però ecco, se dovessimo fare dei discorsi così un po' complessivi, che poi lasciano il tempo che trovano, però ecco, mi sembra che a dispetto del fatto che ci siano state grosse problematiche sulla fruizione in sala, da un altro punto di vista la qualità dei film è stata molto molto interessante. Nonostante anche l'intasamento e le uscite lampo, però comunque sì. Senza parlare delle piattaforme, che lì veramente sta diventando quasi impossibile seguire tutto, quindi anche lì la proposta è molto molto ampia, ecco, forse più quantitativa che qualitativa. Procediamo. Inizierei da un film che rispecchia anche una cinematografia, quella francese, che nel discorso che stiamo appena facendo mi sembra molto molto interessante quest'anno. Avrei potuto inserire tra i film francesi Titan, France di Bruno Dumont, però invece ho scelto di inserire solamente Annette di Léo Carax, che è stato in questo senso un colpo di fulmine più degli altri. Mi ha completamente rapito fin dalla prima scena, che poi è anche molto paradigmatica di tutto il film, perché è un musical, no? In cui dall'inizio appare il regista insieme alla figlia, e che ci sta quasi dicendo che il film parla anche molto di sé. Infatti la storia di un amore diciamo quasi impossibile tra una coppia, per un senso anche di autodistruzione, del protagonista interpretato da Adam Driver, è un film che parla di morti, di persone amate, in questo caso della compagna, di questo protagonista che lui lascia in qualche modo morire, e questo richiama anche un po' l'autobiografia stessa del regista, che è stato colpito, no, da un suicidio di una sua ex compagna, l'attrice Katia Golubeva, musa sua, l'abbiamo vista un po' la X. Ecco, questo film racconta in qualche modo un aspetto autobiografico molto personale, e andando a scavando dentro l'anima proprio dell'artista, cioè del regista stesso, della sua parte anche molto egocentrica, molto vanesia, che chiaramente gli artisti, i registi devono quasi avere, no? Narcisistica, e questa seduta quasi di autoanalisi diventa autentica e molto dolorosa, come non è capitato di vedere ultimamente al cinema. Tutto questo mettendo da parte, ma non mettendo la parte grandiosa di messa in scena e di maestria proprio nella parte tecnica, nel riuscire a raccontare una storia che è anche molto ambiziosa e che avrebbe bisogno anche di tantissimi soldi, e il regista francese riesce con non tantissimi soldi a immaginare mondi e a far sì che lo spettatore entri dentro una storia che sembrerebbe quasi impossibile da seguire per alcuni accorgimenti che vengono messi in atto, ma che appunto ti trasporta in questo musical veramente particolare. Io poi i compositori Sparks non li avevo tanto seguiti nel tempo, quindi per me è stata un'epifania. Il musical è un genere per me fondante anche della mia cultura cinematografica, e quindi passerei al secondo film, che è connesso a questo solo perché è un musical, che è West Side Story, che di Steven Spielberg, appunto da poco uscito. Sfortunato botteghino, ma può succedere che nella carriera di un artista che ha inventato blockbuster, no? Con lo squalo, senza saperlo, senza volerlo, ha inventato i blockbuster estivi. Può succedere da questo punto di vista in un anno un po' particolare, forse anche comunque l'idea di un musical, di un remake di un musical classico di quel tipo non ha trovato né in America ma neanche in Italia il suo pubblico. È stato un po' un peccato, perché sfatiamo subito la questione che molti hanno detto: ma perché rifare psicologi uguale, perché il musical, in questo caso Broadway, West Side Story, è un classico come può essere appunto Macbeth di Shakespeare, che Joel Cohen porterà tra pochi giorni su Apple TV. Quindi ecco, si può benissimo rifarlo. Chiaramente Spielberg ha portato dei suoi punti di vista, dei suoi sguardi, oltre che ritorniamo qui alla maestria della messa in scena, per cui a differenza anche del film del 61, questa storia di Steven Spielberg ci accompagna nei numeri di danza e di lotta, che ricordiamo il film questa storia è curioso ed è particolare nella storia del musical, perché un film è un musical che ha una forte dose di violenza, no? Questa lotta tra gang rivali, questa storia del 61 è l'ultimo grande film del musical classico hollywoodiano, sapendolo di essere, e inserisce questo elemento di violenza. Ecco, con Spielberg entriamo in queste coreografie in maniera molto immersiva, non frontale o teatrale come poteva essere prima, e Spielberg appunto ricrea un mondo, ricrea la conflittualità interna comunque alla società americana, no? Gangs of New York diceva che l'America è nata nelle strade, e nelle strade noi dalla prima scena entriamo subito in questa lotta tra due bande rivali, tra due mondi, tra portoricani e sedicenti americani, nel senso che sappiamo bene che la società americana si è formata anche abbastanza recentemente, quindi queste distinzioni appaiono anche un pochino fumose, ma ci sono state e ci sono, e chiaramente il richiamo all'oggi è fortissimo in questa scelta di Spielberg di rifare in maniera molto classica ma anche molto moderna appunto un musical super classico. E visto che parliamo comunque di musica, allora mi viene in qualche modo comodo inserire un titolo forse meno sentito, meno citato, che è questo film che si chiama The Disciple, un film indiano di, spero di dirlo abbastanza bene, Chaitanya Tamane, che è un regista abbastanza giovane, e l'abbiamo visto al Festival di Venezia dell'anno precedente. Lui è arrivato a Venezia con i suoi collaboratori, tutti molto giovani. Sottolineo questo aspetto giovane perché il film invece parla in qualche modo della musica classica indiana, se ricordo bene, proprio dell'India del Nord, di un certo tipo di appunto tradizione musicale, e di un ragazzo che è appunto il discepolo di un maestro e che vorrebbe eseguire e comporre questa musica. Il film è pieno di questo tipo di musica e risulta anche abbastanza ostica, ma al di là dell'aspetto che può essere anche di antropologia musicale, è talmente anche in questo caso immersiva entrare in queste sonorità che diventa quasi magica questa atmosfera. E comunque il film non è solo questo, è l'amore di un ragazzo per questo tipo di musica, per questo maestro che idolatra, ma la cosa molto bella del film è che nei diversi passaggi in qualche modo dell'educazione, della crescita di questo personaggio, le cose cambiano, cioè quello che uno da ragazzo pensava fosse un mito assoluto, poi più avanti vediamo come viene anche smontato l'idea, no, del maestro, del grande autore. E quindi adesso così un po' scherzando mi viene anche da dire che è un film in qualche modo che parla anche a noi critici cinematografici per demitizzare anche certe nostre infatuazioni. Quindi è un film in questo senso che parla di una cosa che sembra talmente molto lontana da noi, ma invece è un film molto moderno. E quindi parlavo di modernità, e un film molto moderno è Collezionisti di carte, che abbiamo visto anche questo a Festa di quest'anno, di Paul Schrader con Oscar Isaac. È un film che ci porta dentro delle tematiche molto poco battute alla fine, anche se ci sono stati dei film sulla guerra in qualche modo in Iraq e tutto quello che è successo dopo l'11 settembre, però ecco, Abu Ghraib e in qualche modo Guantanamo, gli echi di questi carceri non erano arrivati nei film, almeno non nel modo in cui Paul Schrader li mette in scena, anche in alcune sequenze girate in maniera molto particolare con delle macchine da presa, con dei grandi angolari all'interno di queste prigioni. E il film mette in scena quello che è il fulcro poi dell'opera di Paul Schrader, no? Sceneggiatore di Taxi Driver, il regista stesso naturalmente, che è quello del senso di colpa, che ha bisogno in qualche modo di avere un momento di redenzione, che è quella che cerca il protagonista del film, e che è una redenzione che dovrebbe essere per cancellare le colpe sue, e che sono poi le colpe di una nazione, naturalmente il film mette in scena l'impossibilità poi alla fine di poter, ecco, redimersi da alcune colpe che in questo caso gli Stati Uniti, con anche questo tipo di istituzioni, cioè questi carceri extra tutto, che hanno messo in piedi, ecco, non c'è possibilità di essere redenti secondo me quando la violenza è di Stato. Ecco, questo diciamo è il culmine di questo mio ragionamento. Ecco, la violenza di Stato non ha nessun modo di essere né scusata, né capita, né compresa, né appunto redenta. Violenza di Stato, ma c'è anche l'antistato. Adesso mi è presa questa cosa di collegare tutti questi film che sono collegabili, perché in questi cinque film, abbiamo parlato di Francia, America, India e di Nuova America, c'è anche l'Italia. E il titolo che ho scelto è A Chiara di Jonas Carpignano. Avrei potuto mettere Max può aspettare di Marco Bellocchio. Bellocchio poi continua a fare i film, c'è anche una serie che vedremo a breve, quindi ha ancora tanto futuro davanti, però mi piaceva, ecco, mettere un film di un regista giovane come Carpignano, che con A Chiara termina in qualche modo una sua trilogia che è molto vicina alla Calabria. Ma lo volevo segnalare anche perché è un film che è una commistione di un modo di fare cinema molto interessante, che alcuni cineasti, soprattutto giovani, però anche Bellocchio con Max può aspettare, cioè una commissione tra cinema documentario e cinema di finzione, o comunque l'utilizzo di certe tipologie di girare, e quindi qui con attori per esempio non professionisti, ci porta dentro la Calabria, quella che conosciamo di meno, che abbiamo visto certamente in Anime Nere, in alcuni film legati alle tematiche della criminalità organizzata dell'Andrangheta, ma lo fa in una maniera molto sorprendente, focalizzandosi su una ragazza diciottenne che è immersa chiaramente in questa società e scopre di avere un padre che appunto ha un'altra vita legata all'Andrangheta. Il film è molto onesto, perché è un film che guarda dal di dentro certi fenomeni senza mettersi in qualche modo in cattedra o a distanza e quindi dare giudizi moralistici, per cui anche il personaggio di lei in questa scoperta farà delle scelte che possono anche sembrare così tra virgolette negative, però racconta una società, un modo di vivere che modifica e imprime delle scelte alle persone che fanno parte di quella società. È sempre, diciamo, facile dall'esterno dare dei giudizi. Carpignano non li dà e ci porta dentro con questo cinema, appunto a metà tra il cinema documentario, tra l'osservazione del reale e l'affidarsi appunto a persone e attori non professionisti. Chiaramente alcuni di loro, alcune parti sono state criticate perché non sono effettivamente perfette dal punto di vista attoriale, però è proprio l'idea di cinema che c'è dietro al lavoro di Carpignano, che è immerso in quella realtà da anni in cui vive e che la racconta, che fa sì che il film abbia anche in questo caso una forza straordinaria. Pedro, ancora un augurio e a presto, speriamo durante l'anno. Perfetto, grazie, molto abbraccio. A presto. Saluto a tutti, ciao.